Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento anche questa settimana con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e ritroviamo il presidente Carlo Garofolini al telefono. Ben trovato, Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Intanto buone vacanze, perché insomma, come tutti in questo periodo, chi prima chi dopo ci si muove per le vacanze, e tu sei in automobile, si sente un po' di brusio, e ti facciamo gli auguri insomma di un viaggio sereno. Intanto però ricordiamo che stai guidando con il viva voce, quindi no, non c'è problema in questo senso. Parliamo proprio di vacanze con te in questo nostro primo approfondimento di questa settimana, perché ci sono delle statistiche che fanno capire un po' qual è il polso della situazione. Sì Francesco, quest'anno rispetto al 2014-2013 sembra che gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza siano di più. Certamente questo è un dato di Federalberghi, quindi noi sicuramente lo sosteniamo, perché anche noi abbiamo ricevuto queste impressioni dai nostri soci, e soprattutto gli italiani, malgrado insomma questa crisi, piuttosto di rinunciare alle ferie, anche complice un po' del clima, magari rinunciano un giorno in meno, però ecco, almeno una vacanza, 8 giorni, hanno trovato un modo di riuscire a farla. Ecco, quindi si va a ridurre la vacanza. Io ricordo che quando ero piccolo si stava via addirittura un mese, no? Al mare piuttosto che, e poi via via si è iniziato a ridurre a 3 settimane, 2 settimane. Cos'è la media quindi, 8 giorni? La media quest'anno è di 8 giorni rispetto a quella che era di 9 giorni rispetto a qualche anno fa, 10 come dici tu. E bisogna dire che tutto sommato anche il budget rispetto agli anni precedenti è un po' diminuito, quindi si riducono i soldi, si riducono i periodi, ma non si rinuncia alle ferie. Tant'è che parlando di numeri, quest'anno le persone che vanno in ferie sono 30,4 milioni rispetto ai 26,8 del 2013 e 28 milioni del 2014. Però quindi insomma un bel aumento quello che vede molte persone muoversi e andarsi a fare qualche giorno di meritata vacanza. Cos'altro possiamo dire? Allora, innanzitutto Francesco, bisogna dire che le località più gettonate sono il sud rispetto ad altre, e in particolar modo una persona su due ha dichiarato di andare, per chi ha deciso di rimanere in Italia, di recarsi al sud. Poi un altro dato molto interessante sono appunto quello della cifra, che quest'anno le persone mettono a disposizione 786 euro rispetto ai circa 800 dell'anno scorso, e soprattutto bisogna dire che queste cifre dovrebbero un attimino indurci tutti quanti a riflettere, siccome il turismo dovrebbe essere un settore importantissimo, soprattutto in questi giorni che si sta parlando molto della crisi del sud e quelle che sono un po' le iniziative che il governo stanno discutendo per rilanciare il Mezzogiorno, quando oggi secondo me la soluzione siano proprio davanti al naso, e non capisco come mai non si pensi veramente di trovare il modo di far utile con questi numeri qua, soprattutto in queste zone turistiche. Ecco, la cosa che mi fa pensare è che magari qualcuno preferisce il sud, forse perché si spende un po' meno che al nord. Si spende un po' meno, però soprattutto ci sono altri costi e altri mali, per cui le persone magari ricercano certamente anche i luoghi di villeggiatura particolari ad altri. Quando si parla di sud, poi ricordiamoci sempre la Puglia, la Sardegna e la Sicilia, che sono ovviamente molto gettonate. Certamente anche al nord abbiamo bellissime località, però ecco, comunque al di là di quelle che sono le preferenze, bisogna dire che 30 milioni di persone che vanno in vacanza certamente non sono poche, soprattutto questi sono i numeri italiani. Poi dobbiamo anche ragionare su quelli che sono gli stranieri che vengono un po' nel nostro paese, non solo l'estate ma anche un po' tutto l'anno, e certamente bisognerebbe capire come questo settore bisognerebbe veramente strutturarlo e puntarlo anche per uscire dalla crisi che stiamo attraversando. Ecco, dato che ci siamo, Carlo, ti posso affermare che c'era un articolo la scorsa settimana che diceva che il luglio è andato molto bene, almeno in Veneto, proprio per la presenza di numerosi tedeschi. Sì, sappiamo che i tedeschi frequentano molto il Veneto, ci sono anche delle località ferite molto, molto cittonate, pensiamo a Jesolo, come pensiamo anche Bibione, ma soprattutto anche Caune. Certamente bisogna entrare su quello che è anche un ragionamento un po' più ampio, perché ripeto, il turismo deve essere una risorsa che secondo noi dovrebbe essere un po' un veicolo che dovrebbe trascinare il nostro paese a trovare delle soluzioni su un settore che sicuramente possiamo definirci unici al mondo. Ricordiamo che non parliamo solo di coste di mare, ma ci sono anche le montagne, ricordiamo anche le terre delle Dolomiti che abbiamo qua nel Veneto, come anche tante altre zone molto importanti, ma che ritengo che la città d'arte, coste, mare, montagna, certamente siamo l'unico paese al mondo che può offrire qualsiasi genere e qualsiasi, e accontentare qualsiasi gusto. Certamente, allora augurando a tutti buone vacanze anche a te caro Carlo, ricordiamo che c'è lo sportello Vacanza Informata dell'Adico, se capita qualche problema, insomma avete bisogno di qualche consiglio, www.associazionedifesaconsumatori.it è il sito e da lì poi si trovano i vari contatti per chiamarvi, per avere un aiuto nel caso, speriamo di no, ne abbiate bisogno. Grazie Carlo e buone vacanze. Sì, per chiudere volevo ricordare proprio Francesco come l'Adico è aperta tutta l'estate e anche tutto il mese di agosto, per cui come dico te, anche per queste problematiche qua le persone in qualsiasi momento possono contattarci. Un saluto a tutti e un ringraziamento anche a te. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.